Il passato non passa mai, perché tutto resta in noi come un eterno presente. Una volta entrati nella vita, non si esce più. Non voglio dare un messaggio sbagliato a chi legge. Voglio che si sappia che non sono un uomo migliore dopo 30 anni di galera. Ero un uomo migliore quando pascolavo le mie capre sulle pendici della montagna ed ero circondato dall'amore dei miei genitori, di mia figlia e di mia moglie. Che cosa è restato di migliore in me dopo 30 anni di carcere speciale, dove mi è stata fatta per tanti anni una guerra psicologica per 24 ore al giorno, dentro 4 mura da dove non potevo vedere il cielo della finestra perché oscurata da una lastra di plastica nera, da dove nell'estate non entrava nemmeno un alito di vento e diventava una fornace ardente quella piccola cella? Dovevo essere educato dentro quelle 4 mura, con la tortura. Dovevo diventare un uomo migliore. In tutti questi anni mi è stato proibito di frequentare una scuola, di andare a messa la domenica perché ero cattolico, di vedere le persone che amavo. Le potevo vedere solo per 1 ora al mese, da dietro un vetro blindato con uno spessore di 40 centimetri, attraverso il quale non si sentiva nemmeno la voce. Non potevo avere in cella libri, tutto era limitato, contato e controllato, dai calzini alle mutande all'ora d'aria. Mi è stato impedito per tutta la mia gioventù di vivere da essere umano. Non sono un uomo migliore. Non sono felice perché ho perso il mio orizzonte di vita. Mi sono domandato molte volte perché in questo luogo dannato nessuno tenti di recuperare qualche dannato. Questo luogo è considerato un fiume le cui sorgenti sono inquinate e dovrà avere sempre acqua cattiva. Nella profondità di noi stessi riusciamo ancora ad amare il nostro io, dal quale si attinge lo spazio del tempo ogni giorno che passa. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo capire il giudizio della nostra coscienza? Siamo degli animali estinti, la vita non entra più dalla porta del cuore. Il giardino che ospita l'eternità brillerà ancora anche per noi nel cielo. Quando l'essere umano non ha più idee, la sua vita diventa una prigione, un buio labirinto. Si può pensare che l'uomo è ciò che pensa e si modella con i suoi comportamenti nella dimensione spazio-tempo. La libertà è finalizzata alla verità. Chi si è mai chiesto se vale la pena di lottare durante la vita per la verità, se in conclusione si deve morire e lasciare tutto a terra? Viviamo nell'Italia dei misteri occulti. I parlamentari vogliono l'immunità, pretendono di non essere giudicati per le loro azioni, come dei comuni cittadini. È giusto che questi signori non vengano in galera, perché la galera non ha fatto di me un uomo migliore, ma un essere perso nel vuoto, un disadattato senza più energia mentale, perché privo di futuro. In questo modo senza esistenza, che cosa mi importa del presente o del domani? Mi sono domandato, se un giorno uscissi da queste 4 mura, che cosa farei in un mondo che non è più mio? Le rivolte nelle carceri del marzo 2020 sono costate la vita a 13 detenuti. Nel maggio 2022 si è concluso lo stato di emergenza al quale siamo stati sottoposti per oltre 2 anni. Per noi al sapore di una liberazione. Per i detenuti invece sarà il graduale ritorno ad uno stato permanentemente emergenziale, fatto di mortificazioni e infantilizzazioni, dove per imbucare una lettera, per farsi una doccia, per prendere l'ora d'aria, si deve chiedere il permesso ad un adulto in divisa. Un mondo fatto di 3 metri per 4, dove l'unico odore respirabile è l'odore prodotto dai propri corpi, dove i 3 colori della cella sono gli unici colori del mondo, dove non esiste natura se non il freddo cemento, dove non si possono mai guardare le stelle, dove la morte si vive ogni giorno e dove ogni giorno si muore un po'. Leggo soltanto quattro righe prima di scomparire definitivamente nell'oblio del regime del 41 bis. Lasciatemi dire poche cose, poi tacerò per sempre. La magistratura della Repubblica Italiana ha deciso che sono troppo sovversivo. Non posso più avere la possibilità di rivedere le stelle, la libertà. Seppellito definitivamente con l'ergastolo ostativo, che non ho dubbi mi darete, con l'assurda accusa di aver commesso una strage politica per due attentati dimostrativi in piena notte, in luoghi deserti, che non dovevano e non potevano ferire o uccidere nessuno e che di fatto non hanno ferito e ucciso nessuno. Non soddisfatti, oltre all'ergastolo ostativo, visto che dalla guerra galera continuavo a scrivere e collaborare alla stampa anarchica, si è deciso di tapparmi la bocca per sempre con la mordicchia medievale del 41 bis, condannandomi ad un limbo senza fine, in attesa della morte. Io non ci sto e non mi arrendo e continuerò il mio sciopero della fame per l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo fino all'ultimo mio respiro, per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo paese. Siamo in 750 in questo regime ed anche per questo mi batto. Al mio fianco i miei fratelli e sorelle, anarchici e rivoluzionari. Alla censura e alle cortine fumogeni dei media sono abituato. Queste ultime hanno l'unico obiettivo di mostrificare qualunque oppositore radicale e rivoluzionario. Abolizione del regime del 41 bis, abolizione dell'ergastolo ostativo, solidarietà a tutti i prigionieri anarchici, comunisti e rivoluzionari nel mondo, sempre con l'anarchia. Alfredo Cospito. C'è un uomo, Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali in provincia di Sassari, che oggi è al 58esimo giorno di sciopero della fame perché sia abolito il regime carcerario a cui è sottoposto. Il regime in cui Alfredo e diverse centinaia di altre persone si trovano è noto come 41 bis. Non è tecnicamente una pena, in quanto attuato per decisione del Ministero della Giustizia e non di un'aula di un tribunale. Non è tecnicamente una pena, ma lo è, perché prevede delle condizioni detentive molto afflittive e un isolamento così totale che per fare notizia di sé all'esterno Alfredo ha dovuto smettere di mangiare. Un isolamento così totale che per quasi 50 giorni di sciopero della fame noi di Alfredo abbiamo solo potuto sapere il numero di chili che via via perdeva, oggi più di 30. E lui di noi nulla. Il 5 dicembre, durante un'udienza processuale in videoconferenza, Alfredo ha fatto questa dichiarazione e poi è di nuovo calato il silenzio totale. Se il carcere è un istituto che non aiuta nulla e nessuno, il carcere cosiddetto duro aggiunge solo una crudele e lunga tortura, vendetta consumata a freddo. Con Alfredo hanno scioperato Juan e Anna, che ha interrotto lo sciopero due giorni fa, e sta ancora scioperando Ivan. Contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, contro il carcere. Non si fermerà, me l'ha detto.

vuol cambiare la realtà con gesti d'amore e libertà. Al sorgere del sole hai sfiorato per un solo attimo il viso provato di chi può guardare a malapena dietro le sbarre la luna piena. Bacia i ragazzi turchi del coro, nessuno oramai pensa più a loro, alle barbarie nelle galere degli aguzzini che hanno il potere. A chi non si piega tendi la mano, chiuso in quel carcere così disumano, grida in faccia al potere ottuso e non fermarti davanti al soffio.